Effetto Mondo. Eccoci qua, buongiorno Giulia Crivelli, ciao Giulia. Ciao, buongiorno a tutti. Benvenuta, buon inizio di settimana, post Pasquetta e quant'altro, Giulia. Allora, da cosa vuoi cominciare oggi, diciamo, in questa lettura dei giornali internazionali, Giulia? Guarda, la cosa che mi fa più effetto e mi fa proprio arrabbiare, se devo dire la verità, è legata al problema delle residenze per anziani. E ieri prima ho sentito l'aggiornamento sul Pio Albergo Trivulzio e mi arrabbio non anche naturalmente per il Pio Albergo Trivulzio, ma lì l'inchiesta è in corso, perché la Bild domenica, questo quotidiano super diffuso in Germania, è sicuramente una buona idea dare un'intervista alla Bild se si vogliono raggiungere molte persone. L'intervista l'ha data Ursula von der Leyen, ha spiegato che a domanda, ma verranno anche prolungate le restrizioni per le visite negli Altenheim, che sono le case di riposo, perché sì, Kinderheim sono gli asili, gli Altenheim sono le case di riposo. È stato ripreso da molti giornali come se lei avesse detto che gli anziani devono restare in casa fino alla fine dell'anno. Non l'ha mai detto, tra l'altro non avrebbe neanche l'autorità di farlo. Lei è Presidente della Commissione Europea, su queste cose decidono a volte nemmeno i paesi, come ben sappiamo, ma le regioni. Quindi questo poi, infatti, la Bild oggi parla di tutt'altro, cioè non c'è stata assolutamente la risonanza che si è avuta qua a questa notizia, che secondo me ha spaventato molti anziani. È vero, ne ho sentito parlare tanto anch'io di questa dichiarazione che ha colpito molto, ma come può essere successo secondo te? Strumentalizzazioni o errori di traduzione? No, come è che accade? Forse non so, converrebbe, se non c'è qualcuno che sa veramente bene il tedesco, converrebbe non tradurre piuttosto che tradurre in male, modo imprecisato su un tema così delicato, tutto qua. No, invece concordo. Negli Stati Uniti ovviamente sappiamo continuano a proposito di poteri e autonomie regionali, continuano insomma un po' il tema delle riaperture scaglionate, ma soprattutto, anche se giustamente secondo me non è la notizia di apertura su nessun giornale, perché in questo momento la priorità è la lotta alla pandemia, però c'è su tutte le prime pagine del Washington Post, New York Times, su Wall Street Journal non c'è nemmeno in prima pagina, tanto per darvi un'idea, è l'endorsement ufficiale di Sanders a Joe Biden per come candidato che sfiderà Trump in novembre. E la cosa divertente è che era stata organizzata questa diretta naturalmente dalle rispettive case, che poi è andata su tutti i canali televisivi, quindi gli schermi erano divisi in due, si parlava di pandemia, poi a un certo punto Sanders ha fatto questo endorsement e lo stesso Biden è rimasto un po' così. Se vuoi sentiamo questa un po' sorpreso, breve parte del un po' video. Sorpreso, cioè era nell'aria, sì, però non era ancora effettivamente arrivato. Poi c'era anche un po' di suspense in realtà, perché chissà, magari poteva andare avanti chissà per quanto tempo questa indecisione. Sì. Invece sentiamo. Today I am asking all Americans, I'm asking every Democrat, I'm asking every Independent, I'm asking a lot of Republicans to come together in this campaign to support your candidacy, which I endorse, to make certain that we defeat somebody who I believe. Si sente Biden che dice sì, che dice però non me l'aspettavo. Sì, il tema è ancora, perché poi parlando della lotta alla pandemia naturalmente si parlava di come la sta affrontando il presidente Trump, e Sanders ha ribadito che secondo lui questo, dice qui però è la mia opinione personale, che questo è il peggior presidente che noi si sia mai avuto negli Stati Uniti. Però a proposito di Stati Uniti è anche interessante appunto il tema dei governatori che vanno un po' in ordine sparso, e questo sì che fa arrabbiare Trump, e c'è per esempio sul Washington Post, non c'è invece sui giornali, e anche qui, quindi vi prego, andate sempre, non necessariamente ascoltate noi, ma andate sempre a vedere la fonte quando no, sentite ascoltate queste noi, soprattutto interpretazioni. Ascoltate noi. No, perché non voglio, figurati, mettermi sul podio di chi, di chi va direttamente alle fonti, però lo faccio, e dipingere, come ho visto oggi su alcuni giornali, che ci sia uno scontro tremendo tra Anthony Fauci, il mega esperto, e Donald Trump. Trump non è così, c'è stato il solito scambio di tweet, ma Donald Trump comunica così. In realtà sembra proprio ancora un po' il gioco dei ruoli, il poliziotto buono e il poliziotto cattivo, ma sulle misure, su quando riaprire, cioè, succede quello che succede anche da noi. Gli scienziati hanno un'opinione, ai politici dovrà spetterà la decisione finale, se ne assumeranno tutte le responsabilità. L'hanno detto qui da noi, lo hanno detto negli Stati Uniti, lo dicono ovunque, cioè ognuno ha il suo ruolo, tutto qui. Senti Giulia, ieri sera il presidente francese Macron ha tenuto un solenne discorso alla nazione che insomma è stato giudicato anche come un visionario e incoraggiante, allo stesso tempo anche se con elementi di verità importanti. Sì, credo che sia stato apprezzato da tutti questa trasparenza e anche l'ammissione di alcuni errori, giustificata come fanno tutti con l'impreparazione. E quindi Le Figaro, per esempio, alla prima pagina con questo virgolettato dobbiamo far rinascere la speranza, anche se non c'è niente di sicuro, e poi l'editoriale, forse la fine della, intravediamo la fine di questa lunga notte. Le Monde sta ospitando una serie di opinioni, tra cui l'economista Thomas Piketty, su come pensare il mondo che verrà dopo. E è interessante anche che Macron ha voluto questa, un po' come aveva fatto quando c'era stata la grande crisi dei gilet gialli, istituire una specie di comitato che accolga le proposte dei cittadini sul dopo Covid, su come le persone con le loro varie esigenze pensano che si dovrebbe ripartire. Poi la curiosità è invece che c'è un boom di vendite del vélo d'appartement, cioè la bicicletta da casa. Cioè non la si dice cyclette? Vélo d'appartement, no, cioè, no. Pensavo che fosse una parola francese, pensa nella mia stupidità. Giulia, invece, per quanto riguarda la Corea del Sud, so che partendo da naturalmente dalla consueta lettura dei giornali, però ci fai anche ascoltare un audio interessante del ministro degli esteri, forse, giusto? Sì, ha dato questa intervista al ministro degli esteri coreana, una donna, a France 24, che è il canale televisivo in inglese della Francia, ed è interessantissimo quello che lei dice. Sentiamo questo breve passaggio. Our fight about the virus is about robust testing, very vigorous tracing and a quick treatment of the patients. And in addition to transparent, potremmo dire esattamente quello che non è successo da noi, quindi tantissimi test, tracing anche con le famose app, e poi naturalmente cercare di far avere subito, come del resto dicevi prima tu, le giuste cure nel più breve tempo possibile. Questo ha portato la Corea del Sud, che era da tutti considerato un paese in pericolo vista la vicinanza con la Cina, e infatti all'inizio i contagi c'erano stati molto alti, poi si è fermato, l'ha portata ad avere pochissimi morti, pochissimi contagi. Assolutamente. Questa donna è eccezionale, io veramente vi invito a ascoltare questa intervista. Tra l'altro parla un inglese stupendo, non sembra quasi asiatica, perché magari veramente un po' dall'accento. In qualche comitato dei nostri, un'ascoltata a questa intervista potrebbero dargliela. Giulia, per chiudere, c'è ancora qualcosa in Germania, per esempio, si parla anche lì di riapertura, per esempio, della scuola. Sì, qui sì, la riapertura della scuola pare sicura, anche se poi dipenderà un pochino dai Länder. Ho trovato molto interessante su El País questo tema, che del resto avete toccato anche voi, delle far scuola da casa, e perché tenere i bambini comunque così confinati, la scuola non è abbastanza per farli sentire, per dargli un qualche senso di normalità, e dai primi segnali osservatori si osservano tantissimi disagi, genitori che telefonano le linee di ascolto, aumento dei disturbi alimentari, si prospetta addirittura un aumento dell'obesità infantile, che sappiamo è un problema in tutti i paesi occidentali. Ed è un tema che ha toccato anche Macron nel suo discorso ieri, questo dei bambini. Giulia, grazie per essere stata con noi, ci risentiamo, ci ritroviamo naturalmente domani con te. È tutto per questa puntata di Effetto Giorno, con Andrea Roccabella in regia, Jacopo De Franchi in assistenza in diretta, Alessandro Schirano in redazione. Ciao da Alessio Maurizio, a domani.